Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, presentiamo un incontro, una tavola rotonda sulla questione di genere nella scienza che ci sarà domani 1 aprile 2023 alle ore 11 presso la biblioteca Goffredo Mameli in quel del Pigneto, proprio su via del Pigneto. Il titolo dell'incontro della tavola rotonda è Verso una scienza femminista. E una tavola rotonda che si interrogherà in che modo nei contesti di produzione del sapere, anche in quei settori dove le donne sono da sempre la maggioranza, com'è possibile che le disuguaglianze di genere continuino a essere presenti. Quindi, cosa succede alle donne che decidono di lavorare nella ricerca accademica, che ambiente le accoglie, qual è anche la cultura delle organizzazioni nelle quali si trovano immerse, chi determina poi, entrando più nello specifico, quindi su un piano più, diciamo, epistemologico e metodologico, chi determina le domande interessanti della scienza, in che modo il sapere scientifico può essere affetto dalle questioni di genere, ancora che ruolo può giocare la comunicazione della scienza nella costruzione di comunità, di ricerca plurali e ricche di soggettività differenti. Questo è, sono alcune delle domande che aprono una prospettiva di confronto a partire anche dal libro Doppio Standard, Donne e carriere scientifiche nell'Italia contemporanea di Camilla Gagliaschi, edito da Carocci nel 2022. Dunque interverranno e discuteranno su quello appunto Camilla Gagliaschi, autrice e sociologa, Teresa Numerico, filosofa, Maria Cristina Sciannamblo, sociologa. Modererà l'incontro Edwige Pezzulli, astrofisica e comunicatrice della scienza che è qui con noi. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao Barbara, ciao a tutte e a tutti. E la tavola rotonda è a cura di Annalisa Fabretti, Alessandra Filabozzi, Camilla Gagliaschi, Teresa Numerico, Edwige Pezzulli, Maria Cristina Sciannamblo, che è un po', come dire, sono i nomi di una nuova rete che si è creata intorno a queste questioni. Allora, io lascio a te la parola così ci racconti intanto se ti va, come nasce e come vi siete incontrate. E quali le prospettive che aprirà questo incontro, e poi appunto se ti va di approfondire invece la tavola rotonda di domani. Allora, diciamo, nasce un po' da un bisogno che abbiamo sentito tutte quante, soprattutto le tre del gruppo che vengono dalle scienze dure, perché siamo due fisiche e una matematica all'interno di questo gruppo, da questo profondo senso di isolamento e di solitudine avvertito all'interno dei dipartimenti scientifici, nel momento in cui si cerca di portare un'analisi attraverso delle lenti di genere sulle questioni del fare e anche del raccontare la scienza. Quindi in discussioni fatte appunto in ottica un po' più personale, un po' più individuale, ci siamo accorte che forse era importante provare a mettere a sistema tutte quelle conoscenze e quei saperi che varie ricercatrici femministe hanno cercato di sviluppare in questi settori, che sono la sociologia, che sono la storia, che sono anche la filosofia, per provare a iniziare a creare un dialogo, un dibattito, un momento di confronto, ma anche un momento di ritrovo e di ascolto reciproco su il tema scienza e genere. Un po' nasce da delle riflessioni che ognuna di noi stava portando avanti su questi temi e delle ricerche, degli approfondimenti che stavamo facendo appunto su questi, se vogliamo, quattro macro assi per noi, che sono l'asse storico, quello sociologico, cioè che cosa succede alle donne nel momento in cui entrano e tentano una carriera scientifica, qual è l'ambiente che le accoglie, qual è, come dicevi tu, la cultura delle organizzazioni nelle quali sono immerse. Il problema della comunicazione, cioè come raccontiamo la scienza, qual è l'immaginario che ci torna negli occhi, che ci si accende nel momento in cui diciamo questa parola, perché lo sappiamo molto bene che uno dei grandi problemi che allontana e che crea questa disparità di genere all'interno delle discipline scientifiche è l'immaginario, sono gli stereotipi, i pregiudizi di genere in particolare rispetto alla figura e lo standard dello scienziato, che è un uomo che è bianco, che è occidentale, che vive una serie di dinamiche colonialiste anche, e che viene rappresentato non a caso nella figura di Einstein, di Albert Einstein, quindi di una scienza fatta da uomini, come questo modo di comunicarla e raccontarla può allontanare e creare degli ambienti totalmente sfavorevoli per le donne, ma anche un'altra cosa, che è l'aspetto che, se vogliamo, è quello un po' meno raccontato all'esterno delle comunità scientifiche, cioè come chi fa la scienza determina il sapere che andiamo a costruire. Questo molto spesso, diciamo, le persone che stanno all'interno delle comunità scientifiche fanno davvero fatica ad accettarlo, ed è la grande ricchezza che l'epistemologia femminista ci ha dato, ci ha permesso di leggere, cioè come la scienza sia un apparato non neutrale, un processo che dipende strettamente dai valori, dai pregiudizi, dai preconcetti, dalla cultura delle persone che portano avanti quel tipo di sapere e dalla loro posizione situata, specifica e particolare all'interno del mondo, se vogliamo. E quindi il fatto che la scienza sia stata portata avanti storicamente da un certo tipo di persone, per estrazione anche culturale, socio-economica, di genere e di molti altri aspetti, abbia determinato quello che noi oggi abbiamo negli occhi e nel cervello nel momento in cui si parla di scienza. Quindi cerchiamo un po' di provare ad avviare questo dialogo tra tutte le solitudini, se vogliamo, che abbiamo sentito e che immaginiamo molte altre ricercatrici e forse anche ricercatori possono sentire, e speriamo che questo possa essere un primo passo verso la costruzione di una rete più grande, più ricca, perché un po' come ci insegna davvero l'epistemologia femminista, costruire una comunità plurale, avere più punti di vista per descrivere lo stesso problema, permette di avvicinarsi quanto più possibile a quella che, sotto mille virgolette, noi tendiamo a chiamare oggettività. Come dicevi tu, la critica alla neutralità dei saperi scientifici ancora oggi è spesso accolta con imbarazzo, se non con fastidio, no? Lo dicevi prima, e c'è questa difficoltà appunto a riconoscere che la scienza non è mai un puro riflesso in qualche modo della natura, piuttosto invece dipende, come dicevi bene te, dal suo ruolo sociale, che è storicamente determinato, e dunque dai contesti socio-economici, culturali che la producono, dalle finalità della comunità scientifica, che è fatta di soggetti incarnati, e dai rapporti di forza in cui questi stessi soggetti sono inseriti. Volevo collegarmi, rispetto a questa osservazione che facevi, anche con la questione più etica, perché appunto chi negli anni Ottanta, anche tra le femministe che si sono interrogate anche sull'utilizzo della scienza dopo i fatti di Chernobyl, quello che hanno messo in luce era lo stretto rapporto anche tra scienza e guerra, welfare versus warfare. E allora è un fatto oggi che i militari gestiscano molti aspetti della nostra vita civile, lo dicevamo prima, la cartografia, la meteorologia, la aeronautica militare, la navigazione satellitare, ecco, e mai come oggi appunto la scienza è, come dire, votata a una produzione di armi e di dispositivi, pensiamo ai droni, ai sistemi di sorveglianza, alle app per il contact tracing, tutte quelle tecnologie biometriche mi vengono in mente, che sviluppate soprattutto negli ultimi anni nella gestione dei processi migratori, no? E dunque dei corpi desiderabili da quelli indesiderabili, per distinguere i cosiddetti cittadini dai non cittadini, e che per esempio sono anche al cuore del sistema israeliano di oppressione, no? Se ieri è stata la giornata della terra, appunto, e insomma mi viene in mente anche questo. Rispetto a questo, che riflessione c'è in questo momento tra voi accademici? Il grosso problema è che questo è un tipo di riflessione che, nel momento in cui nasce dal basso e basta, cioè non viene sistematizzata se non in sporadici episodi di confronto appunto spontanei, purtroppo non nel senso positivo, spontaneo è una parola meravigliosa, lo spontaneismo è qualcosa di fantastico, ma nel contesto accademico, nel momento in cui si hanno in mano degli strumenti che, come hai detto bene tu, possono essere utilizzati e vengono utilizzati per dei fini completamente integrati nel contesto sociale, non può essere assente una riflessione sulla relazione tra scienze e società. Questo è qualcosa, mi viene in mente un libro, insomma, molto bello, che è stato scritto nel 76 da, tra gli altri, Marcello Cini, che è l'Ape l'architetto, nel quale si parlava proprio di come la scienza e la società siano qualcosa di fortemente interconnesso, come non possa esserci un'indipendenza dei rapporti sociali nella produzione del sapere scientifico. Questo è qualcosa che io credo si fa molta fatica ancora ad accettare. C'è un dialogo in atto su come aprire la scienza, su come aprirla per, in termini di redistribuzione di quel bene comune, se vuoi, che è la conoscenza scientifica. C'è ancora pochissimo da un punto di vista di riflessione etica, strutturale, su come ciò che noi abbiamo in mano può essere utilizzato ed è di fatto utilizzato per fini che vanno oltre il fine per cui era stato pensato. Diciamo che la riflessione sul potere, forse, ecco, che dovrebbe essere qualcosa di fondamentale, perché ciò che oggi possiamo definire potere, se vuoi, all'interno delle nostre società è il potere di definire, non solo di utilizzare, il potere di creare categorie, il potere di descrivere la realtà, di determinare uno standard, di determinare quella media, no? E quali sono le sigma lontane dalla media. Ecco, tutto quel potere è qualcosa che di fatto viene esercitato in moltissimi modi, ma che non viene discusso. Una delle applicazioni, anche solo restando sul lato più tecnologico e non avventurandoci neanche a cose così, diciamo, più in là, come possono essere le applicazioni militari, anche restando sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale, noi ormai lo sappiamo, no? Che sono qualcosa di completamente determinato dall'etica, dall'approccio, dalla visione, da anche stereotipi e pregiudizi che attanagliano la nostra cultura. Ed è qualcosa che di fatto si manifesta in, per esempio, una discriminazione sistemica di genere nelle applicazioni, dalle più quotidiane alle più impensabili e impressionanti. Per cui sicuramente dovrebbe essere qualcosa che inizia a popolare gli ambienti scientifico-accademici, perché è qualcosa che di fatto esiste, cioè le applicazioni etiche sono qualcosa che, seppur non ci si pone questo problema, di fatto vengono create, costituite, applicate. Il grosso problema, io credo, tra chi fa scienza è che c'è questa convinzione che, appunto, scrivere un algoritmo è qualcosa che, nel momento in cui io la domanda etica non me la vado a fare, fa sparire l'etica che c'è dietro. C'è una fortissima convinzione che il numero in sé possa essere trattato in quanto numero e basta. Ecco, questo ovviamente non è una cosa possibile, un numero in sé non significa nulla, c'è sempre un processo dietro che ha in sé tutta quella complessità dell'essere umano e dell'essere umano immerso in un contesto sociale che non è trascurabile. Forse una delle cose che, di nuovo, una prospettiva femminista può fare è portare anche in questo senso una riflessione strutturata. Assolutamente sì, così come può portare appunto una riflessione alla critica dei modelli di sviluppo, no? Perché appunto lo dicevi te, una critica femminista della scienza riflette sulla subordinazione della conoscenza agli interessi economici e a partire appunto da come dire, da un posizionamento incarnato ed etico, sicuramente può offrire delle domande che magari altri si fanno, e come dire, non interessa, immagino non interessi neanche a voi, non è tanto l'assenza delle donne, per quanto sia, o l'assenza o la poca presenza, no? Che pure è un tema, ma è anche proprio come guardiamo a quel problema insieme. Certamente, infatti il grosso problema, io credo, che accompagna la questione, soprattutto quella mainstream, della, diciamo, del genere all'interno della scienza, e che si limita sempre a non mettere ovviamente in processo, la struttura e il meccanismo, come accade per il femminismo mainstream, se ci pensiamo, ma a cercare di parlare di numeri, no? A limitarsi a questa questione dei dati, che sicuramente, come dicevi te, sono un problema, ma che non sono il problema nel momento in cui il problema è la cultura delle organizzazioni e è il punto di vista rispetto ai processi. E su questo io penso che si possa portare all'interno della scienza, come è stato fatto appunto dalle epistemologhe femministe, la prospettiva meravigliosa, insomma, tanto spinta dal black feminism, che è la questione del margine, cioè di come chi ha margine, ma non solo in termini numerici, perché per esempio in molte discipline STEM, chiamiamole, no? Che vanno sotto l'acronimo che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, beh, lì tu hai molte laureate, hai molte dottorande e anche molte dottorate. Poi c'è quel famoso effetto forbice per cui più sali, più spariscono le donne. Però lì le donne ci sono. Allora, anche laddove ci sono, se la loro prospettiva è una prospettiva che si uniforma a quella eteropatriarcale, anziché portare la loro posizione situata, specifica e particolare, che è quella di donne che vengono da un'esperienza di donne, e di donne marginalizzate in un contesto scientifico, è chiaro che nulla, no, potrà avviare un reale cambiamento. La potenza del margine è proprio quella di mettere in dubbio chi è al centro. E allora riprendiamoci questo tipo di pratica, riprendiamocela anche nella scienza e iniziamo a mettere in dubbio il centro della scienza. Bene, molto grazie Dvige, davvero molto interessanti. Allora, se insomma, intanto invitiamo nuovamente tutti e tutte domani mattina dalle 11 alla Biblioteca Goffredo Mameli per questa tavola rotonda verso una scienza femminista, e a partire appunto dal libro Doppio Standard di Camilla Gagliaschi, con le domande che avete posto, vi siete poste e avete posto nel vostro invito, e ci vediamo domani mattina. Non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci vediamo domani mattina. No, perfetto così, grazie mille a voi, a te Barbara, e ci vediamo domani mattina. A seguire poi ci sarà un piccolo aperitivo offerto da noi di fronte a Tuba, e quindi per chi vorrà possiamo continuare poi la chiacchierata direttamente lì. Benissimo, a domani, grazie. A domani, ciao. Ciao, ciao.